Ed ora il prossimo dialogo. Io mi occupo del mercato francese, tedesco e spagnolo. E speriamo anche inglese. I deal with the French, German and Spanish market. And hopefully also with the English one. Ma parliamo di cifre. But let's talk about figures.